no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. In un manifesto nel quartiere ho letto la frase di Antonio Gramsci: il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, e in questo chiaroscuro nascono mostri. Il mondo è cambiato, sta cambiando e sento una grande attesa. Quiete, casa, quiete. Voglio disfarmi dello sguardo che mitizza la casa come conforto e poter odiare l'isolamento, l'attesa e la quiete. Si dice che la geografia sia la fortuna più grande. In quale paese sei nata rimarrà tra le informazioni più importanti della tua vita. A me mi ha detto molto bene, indubbiamente. Sono del ricco occidente, ma non solo. Abito in una penisola ricoperta dal mare e spesso piena di sole. Sono privilegiata anche nell'emergenza coronavirus, perché continuo a percepire tutti i 27 di ogni mese la busta paga e non devo uscire per andare a lavorare, in quanto sono in smart work e probabilmente ci rimarrò a lungo. Certo, c'è la questione che non ho un marito e che non faccio figli, ma per questo mi sono preparata bene e negli anni ho costruito uno ad uno tutti gli strumenti necessari per difendermi dal disagio di non rispondere appieno a ciò che la società in cui vive si aspetta da me. È così che dentro questa mia bolla di delicati equilibri a volte mi sono quasi vergognata a lamentarmi o sfogarmi di fronte a questa situazione estremamente repressiva che sto vivendo. Io sto bene. Non ho grosse preoccupazioni economiche. Lavoro in uno smart working non totalizzante e continuo a percepire uno stipendio. Siamo in tre, c'è natura, tempo. Tempo di fare, tempo di non fare. Tempo di scoprire, di passeggiare, di raccogliere, di ascoltare, di cantare, di dormire. Non abbiamo bisogno di uscire, siamo già fuori. Sì, sono in una bolla. Una bella bolla privilegiata. Ma come ci sono finita? Ho il privilegio di lavorare da casa. Smart working. Lavoro agile. Lavoro da remoto. Il privilegio dell'efficienza. A guardare bene, il privilegio non è tanto il mio. È dell'azienda che su di me risparmia. Busta paga ridotta. Nessuna pausa a pranzo. Tempo dilatato. Le catene sono digitali. Il byte è il nuovo petrolio. La raccolta dati, la corsa agli armamenti. Stanno costruendo l'architettura dell'oppressione. Questo tempo continuo che si muove stando fermo, che fa esplodere immaginari, desideri, rabbia, che acuisce la radicalità. Mi sento una privilegiata, pur non essendolo, o forse sì. Poteva accadere, doveva accadere. È accaduto prima, dopo, più vicino, più lontano. È accaduto non a te. Ti sei salvata perché eri la prima, ti sei salvata perché eri l'ultima. Perché da sola, perché la gente, perché a sinistra, perché a destra, perché la pioggia, perché un'ombra, perché splendeva il sole, la rete aveva solo un buco e noi proprio da lì. Non c'è fine al nostro stupore. Ascoltiamo come batte forte il cuore. La catastrofe c'era già prima di accorgercene, il controllo pure. Ci sono finita per intuizione, scelta, fortuna, seguendo il mio corpo guida e grazie alle crepe nel sistema di controllo, quelle crepe nelle quali ci insinuiamo da sempre. E questa stessa catastrofe ci aveva già spinto a spingerci un po' più in là, a fare un po' meno e sentire un po' meglio, a seguire il bisogno di natura, di poco, di silenzio. Amor para las hermanas, rabia para el enemigo. Por mucho que sonrían, no me fío, amigo. Larga vida al rollo bollo, cariño. Me quedo con las mías, con sus dramas y sus líos. Sono uscita, come sempre, in un coprifuoco permanente. Metto la mascherina, la tolgo e poi di nuovo la indosso. Sono tesa, sono rigida, non trovo la spontaneità. Mi metto in fila, mi sento dare dell'assassina, perché non sono mascherata. Se mi imparanoio perché siamo troppo vicine, sono ridicola. Chi sto diventando in queste relazioni? Mi fermo, incontro gli sguardi di chi come me non è mascherata. Oscillo. Penso. Non quisiera sometermi, me planto yo en medio de este caos y me la sigo bailando, birlando momenticos donde el cora peta fuerte. Se pagan alto, dime tú cuánto. Stiamo imparando a leggere le espressioni del viso con la mascherina. Ho provato a farmi capire, ma non è andata bene. Stiamo cercando e sperimentando nuove modalità di comunicazione e contatto. Penso che potrei preparare una lista dei desideri, dentro a una resistenza continua, preludio di nuove e antiche lotte. Pretendo di nutrire amicizie, amori, contatti, nutrimento della testa e del corpo. Porro, sacca tu cigarro, pan porro, deja che me corra con ese cacharro. No hacemos rap serio, solo necessario, si quiere bailar lo ponte in medio, mamma. L'altro giorno mia nonna al telefono mi ha detto: ho 94 anni, ho vissuto una guerra, ho visto morire intorno a me veramente tantissime persone. Ad oggi, che siamo così a fa la muffa dentro casa, dice lei, se non posso neanche vedere la mia amica, che campo a fa? Mi è piaciuto soprattutto il fatto che esprimesse in una forma così limpida e chiara un desiderio così essenziale, pulito, semplice, netto. Qualcosa che sai che è quello il motivo per cui hai voglia di campà. Il nostro modo di relazionarsi entra in crisi, in momenti di rottura come questi. Possiamo immaginarci che rendere la distanza parte della nostra interazione, pensarci due volte prima di un abbraccio o di stringersi la mano, se questa distanza diventasse la norma. Si sedimenta lentamente nell'immaginario collettivo e poi si inizia ad applicarla. Magari la vicinanza e l'intimità con le persone conosciute verrà sostituita da un costante dubbio e un punto interrogativo. Avremo interiorizzato il controllo, l'autocontrollo, la logica da crociata contro un nemico invisibile. E immagino che ci ribelleremo a tutto ciò, non applicando la separazione collettiva come forma di rispetto o l'isolamento come forma di cura, non accettando questa come nuova normalità ma creandone un'altra, senza autorità che ci impongano i loro di limiti, ma parlando tra noi e creando dei modi di vivere e non di sopravvivere come invece ci chiedono, di avere cura di noi stesse e delle altre e di chi ci sentiamo vicino, non del sistema che ci inghiotte. La cosa che più mi spaventa è ovviamente l'ambito della relazione. Avere paura dell'altra. Mi immagino incontrare le mie amiche ed essere così profondamente a disagio nel non sapere che cosa farsene l'una dell'altra, che questa cosa mi getta nello sconforto, come a dire, ok, forse non lo voglio proprio vivere. Caroline Merchant nella Morte della natura scrive: la natura animata e vivente morì, mentre il denaro inanimato morto fu dotato di vita. Capitale e mercato avrebbero assunto sempre più gli attributi organici della crescita, della forza, dell'attività, della pregnanza, della debolezza, del decadimento e del collasso, oscurando e confondendo le nuove relazioni sociali sottostanti della produzione e della riproduzione che rendono possibili la crescita e il progresso sociale. La natura, le donne, i neri, i lavoratori salariati furono avviati al nuovo status di risorse naturali e umane per il sistema del mondo moderno. Forse l'ironia ultima in queste trasformazioni fu il nuovo nome dato loro, razionalità. Movimento femminista, ecologia sociale, antispecismo, afflati sovversivi, percorsi di liberazione dal dominio del sistema capitalistico patriarcale, sui corpi, sui nostri corpi e sulla natura. Quest'anno ero decisa a ristabilirmi a Roma, ospite del dolce rifugio. Mi stavo allenando con le compagne dell'autodifesa e pure con quelle del basket. Nelle strade ho rincrociato sguardi ribelli e parole di sorellanza. A voi sembrerà poco, ma ricucire questa realtà ha avuto veramente il sapore delle ciliegie d'estate. Avete presente quelle lunghe nuotate mentre fuori il sole brucia? Ecco, il mio futuro è lì, ovunque voi siate. Il mio futuro è insieme alle mie sorelle. Futuro. Zaino e scarponi. Io e Akira che camminiamo per giorni, colline, boschi, fiumi. Altri che camminano con noi, sempre o qualche volta. Può bastare. Futuro. Un cerchio di noi, su un prato. Ci parliamo. Ci sono dei posti digitali, forse. per chi lontana da Roma è stata vicina come le altre in queste settimane. Non le vogliamo perdere. Futuro, uno spazio da costruire, una casa, collettiva, yurte, tende, furgoni, campagna, forse il mare vicino. Noi che agiamo insieme, striscioni, pubblicazioni, azioni creative, audio, immagini in movimento, pensieri che costruiscono. Vorrei scrivere un'ode per le conosciute, che scopro di più in questi giorni e che sorprendono. E vorrei scrivere un'ode per le sconosciute. Quando e come ci inciamperemo incontro? Oggi è il giorno della liberazione e nessuno è ancora venuto a liberarci. È un giorno come un altro, un giorno qualunque, il sole batte sulle nostre facce arrossate e scalda le nostre frustrazioni. Avere un giardino non è cosa da poco, in un momento come questo è una vera fortuna. È come un mantra, lo ripetiamo da giorni, abbiamo iniziato a recitarlo mentre eravamo in trepidante attesa delle chiavi di casa. È proprio un privilegio, una vera fortuna, una fortuna. Come bambine che hanno tanti giochi a disposizione ma usano sempre gli stessi, siamo timide nel nostro nuovo parco giochi. Abitando il fuori in un dentro, ci sentiamo come panda nel bioparco. La violenza di Stato, il razzismo di Stato, il controllo erano già qui, ma si precipitano a una velocità che fa paura. Mi vedo interiorizzare la riduzione di libertà. Nel frattempo le guardie stanno interiorizzando di avere tutto il potere, tutto lo spazio, privato, politico, globale, individuale. Il futuro sarà fantascienza o distopia? Conflitto o ricerca di pace? Sarà isola o magma? Centro o sbilanciamento? Agire un conflitto che costruisca. Basta che finiscano le messe e gli inni ai balconi. Trasgredire le regole in modo responsabile è possibile. Si deve. Voglio rompere la cultura del sospetto, non subirla. Non voglio lasciarmi disintegrare dal controllo. Futuro, presente. Risignificare attraverso l'insegnamento dei corpi anche questa riduzione di movimento, di incontro, di contatto, questo restringimento di sguardo, questa distanza obbligata. Ascoltare la crepa, essere la crepa e attraversarla. In questo casino sto guardando cosa non cambia. Le stelle nel cielo, mi è arrivato il ciclo, le piante che crescono, l'amore e la rabbia che si condividono e sempre la solidarietà. Io mi chiedo, in questo mio stare c'è un pezzo della soluzione del problema? C'è già abbozzato uno degli strumenti con cui smontare la casa del padrone? Futuro. Il mio sguardo si allarga e si restringe insieme. Tenere insieme i piani, l'infinitamente piccolo, lento, vicino, che puoi assaporare, che puoi spiegare, e la capacità di tenerlo legato a un resto più grande, personale e politico, piccolo e grande, un virus, noi e l'universo mondo. Futuro. La città non mi manca per niente. Mi mancano le compagne, l'energia dirompente che sappiamo sprigionare quando siamo insieme. E mi dico, mi chiedo, perché non siamo tutte qui? Una questione di qualità, una questione di qualità, una questione di qualità. Ho una formalità, non ricordo più bene, una formalità. È una questione di qualità, una questione di qualità, una questione di qualità. Una formalità, una questione di qualità. Io sto bene, io sto male, io non so come stare. Io sto bene, io sto male, io non so cosa fare. Io sto bene, io sto male, ma non so cosa fare. come stare. Io sto bene, io sto male, ma non so cosa fare. Ma una formalità, è una formalità, è una formalità. Il futuro prossimo mi appare, in questo momento, come un lago ghiacciato in una stagione incerta, scivoloso e fragile. Un'enorme distesa gelata che occupa tutto il campo visivo. Il lago riflette la mia immagine, impaurita, indecisa, disorientata. Piccole crepe sono già visibili sulla sua superficie. Calcolo le probabilità di arrivare dall'altra parte e la mia determinazione, insieme al lago, scricchiola sotto il peso delle variabili, come la mia psiche, provata da quasi 2 mesi di isolamento, che si regge su un fragilissimo equilibrio. Quante variabili avverse posso portare prima di cedere? Non guadagno abbastanza, i progetti che avevo diventano più difficili da realizzare. Reggeranno le mie reti politiche e sentimentali al caos di senso e al sospetto reciproco? È ancora tempo di scelte coraggiose o dobbiamo ritirarci nelle nostre sicurezze? Avere coraggio quando intorno si sgretolano tutti i punti di riferimento è difficile. Fare scelte consapevoli quando le possibilità ci si chiudono davanti come porte automatiche è un miraggio. Ne sarò capace? Eppure restare qui, su questa riva glaciale, non è una soluzione. Mia nonna diceva sempre, quando si chiude una porta si apre un portone. Forse la paura, il peso morto di cui mi devo disfare per attraversare il lago. Quella paura che era già lì, la preoccupazione quotidiana, i calcoli per far quadrare tutto, le incertezze perenni e l'ansia di lasciare andare, di perdere. Forse questo è il momento di dire vaffanculo e far saltare il tavolo. Le carte sono truccate e lo abbiamo sempre saputo. Rispondere al distanziamento sociale con più collettività, più condivisione e più rivolta. Inspiro a fondo, sposto lo sguardo verso l'orizzonte. Chiudo gli occhi e sento le foglie frusciare, gli uccelli salutare l'arrivo della primavera, il rumore delle lucertole che cercano il sole. Provo a sintonizzarmi su una nuova relazione con la natura e gli altri esseri viventi, non più rimandabile. In lontananza mi arrivano le voci delle mie compagne, l'eco della mia voce del futuro. Inspiro ancora, taglio fuori la paura, fisso la mia meta, affilo la lama dei pattini e mi lancio.